Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 19 aprile, il sole in regione sorto alle 6.13 e tramonterà alle 20.01. Giovedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Si fa ogni giorno più pesante la crisi che si è abbattuta anche sul settore vitivinicolo della nostra regione, con il mercato fermo e le giacenze che potrebbero essere un problema anche di spazio in cantina. Alla ripresa servirà una robusta campagna promozionale per il nostro vino e riconquistare così i mercati. E il tema del servizio di apertura, a cui segue il corsivo di Enos Costantini, su come si stia sfaldando la buona prassi di interconnessione tra agricoltura, cibo e salute. Nella rubrica delle normative si parla invece delle novità sulla lotta integrata in agricoltura, mentre in quella dell'olivicoltura iniziamo il capitolo strategico delle potature. Dall'Università di Udine arriva poi un capitolo innovativo relativo al piro di Serbo, mentre la rubrica dei giardini ci parla di quello fiorito di Villa Romano a Case di Manzano. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano di Vita nei campi chiudono la puntata. Anche il settore vitivinicolo della nostra regione non è indenne dagli effetti della crisi. Qual è la situazione? Qual è il futuro? Ne parliamo con Dario Ermacora, viticoltore e già presidente di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, cosa sta mancando? Beh, il momento è estremamente difficile. Quello che manca oggi sostanzialmente in una parola è il mercato, perché è tutto bloccato tranne la grossa distribuzione. Il resto della viticoltura, quella di collina, quelle delle aziende più piccole, hanno mercati diversi che sono vendita diretta, che è sempre più importante perché c'è sempre più turismo, e poi c'è la venta dei canali tradizionali, quindi bar, ristoranti, alberghi, enoteche. Ci sono già le prime giacenze? Quello che preoccupa è da oggi in poi che non vediamo nell'immediato che ci sia una soluzione del problema, un cambio di tendenza, perché anche dovessero aprire nel mese di maggio, io credo che ci sarà una ripresa estremamente lenta e che non porterà ovviamente a recuperare quanto è stato perso, ma neanche a mantenere quella condizione di mercato, diciamo, normale in una situazione diversa. C'era la proposta di avviare delle partite di vino alla distillazione, può interessare anche la nostra regione? Credo sia estremamente remota come ipotesi, se non per qualche cantina sociale che magari ha spazio per poter mandare in distillazione qualcosa, ma se immaginiamo le realtà, diciamo, mi sia concesso questo termine, di pregio della nostra viticoltura, quella della parte collinare, credo che questa non possa portare nessun beneficio, perché voglio ricordare che la distillazione volontaria importa un recupero del valore che è bassissimo, che potrà essere il 10% del costo di produzione. C'è ancora troppa burocrazia? Quello è l'eterno problema che grava su tutta l'economia nazionale, perché qualsiasi attività è operata dalla burocrazia. Sul vino è ancora peggio. Sul vino c'è una burocrazia eccessiva, da tutti i controlli che sono importanti, che sono tutela del consumatore e anche dell'operatore serio, però in qualche caso è veramente esasperante, veramente crea una condizione di difficoltà, di rallentamento della propria attività, che io mi auguro, se questa situazione possa portare un beneficio, che riesca a intervenire almeno in questo settore. Come se ne esce, secondo lei? Nell'immediato dovremmo parare il colpo, quindi bisogna che le aziende abbiano un po' di liquidità o che qualcuno gli dia un sostegno per far fronte, diciamo, all'attività, perché l'agricoltura ha le sue regole, noi siamo costretti a coltivare, siamo costretti a continuare a spendere, e dopo credo che riusciremo a uscire, diciamo, nel tempo, solo facendo un'azione di promozione, perché non vedo altro oggi. Non c'è la vendemmia verde, la distillazione, questi strumenti per la nostra regione non vedo che portino grossi benefici. Bisogna fare una promozione mirata, in particolare nei paesi vicini, dall'Austria alla Germania, alla Svizzera, ai mercati, diciamo, più tradizionali per noi, oltre che sul mercato interno, promozionale, concentrare gli sforzi lì per cercare di raccogliere qualcosa di positivo più in là, insomma, al prossimo anno, fine anno. Però credo che sia quella la strada da percorrere. Gli animali di solito fanno due cose: tengono pulito il proprio ambiente e si impegnano per assicurare un futuro alla propria specie. L'uomo, invece, secondo Enos Costantini, fa esattamente il contrario. È il tema del corsivo di oggi. Due cose sono certe. Una volta non si stava meglio di adesso e nel futuro però si starà peggio. Non è il momento di chiedersi il perché della vita, non è il momento di aprire dibattiti, non siamo nel 68, dobbiamo uscire dal peggior 48. Gli altri animali fanno due cose, tengono pulito il proprio ambiente e ce la mettono tutta per assicurare un futuro alla propria specie. L'uomo fa esattamente il contrario. Ci può essere un'inversione di tendenza per tentare di salvare la casa dal fuoco e la specie umana dalla barbarie. Siccome non abbiamo tempo per il talk show, vediamo di mettere da ormai insieme i tre lati del triangolo agricoltura, cibo e salute. Salute per l'ambiente, come fanno gli altri animali, e salute per noi, quindi conservazione della specie. Insomma, che fare? La mia povera bisaccia ha solo 4 punti, che ne ha di più benvenuto. Punto primo, tenere l'orto e 4 galline. Punto secondo, fare la spesa in modo mirato, considerando il carrello come una urna elettorale. Non sono ammesse astensioni o schede bianche. Si vota col piron. Ciò significa mangiare cibo, non la trasformazione industriale del cibo. Punto 3. Nelle elezioni politiche amministrative votare per quei politici e quegli amministratori che collaborano a mantenere pulita la casa e alla conservazione della specie umana. Se questi non ci sono, ce li dobbiamo inventare. Punto 4. Partecipare alla vita civile andando oltre il giardino del proprio club. Associazioni, circoli, amici della musica, banche etiche, gruppi di acquisto, volontari vari, radioamatori, velisti, ciclisti, canoisti, bocciofile, ci metto financo gli Udinese Club, che il calcio non sia più l'oppio del popolo. In mancanza di una classe dirigente, e ci manca, una risposta può venire dalla società civile, se, col condimento di un po' di sante scugne, farà una proposta corale per agricoltura, cibo e salute, impegnandosi in un fronte comune. Il futuro sarà peggio del presente, l'unica cosa sicura è che dovremo mangiare ogni giorno, attaccandoci il più possibile alla nostra salute. Visto che abbiamo un'esperienza, quella di 10.000 anni di agricoltura, non buttiamola via. La vecchia agronomia era solo ecologia applicata e fare agricoltura significa piegare la natura senza offenderne le leggi. Il pianeta potrà vivere benissimo senza di noi, ma non è una grande soddisfazione. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, oggi torniamo sul tema della lotta integrata, in quanto arrivano novità dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia. Sì, inizierei ricordando che già dal 2012 l'unica modalità ammessa per la protezione delle colture è proprio la difesa integrata che, e qui cito testualmente il decreto, prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente. Ma naturalmente per fare questo l'agricoltore deve avere accesso a tutta una serie di informazioni, di dati meteorologici e di monitoraggi delle principali avversità la cui competenza è delle regioni. Ed è qui che entra in gioco l'ERSA. Da qualche giorno l'ente ha attivato un nuovo servizio totalmente gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere sul proprio tablet o sul computer o sugli smartphone gli avvertimenti fitosanitari di produzione integrata e di produzione biologica per le colture più diffuse in regione. È sufficiente un'applicazione molto comune chiamata Telegram, anche questa gratuita, e richiede l'attivazione del servizio. Nel dettaglio tutte le istruzioni per l'attivazione sono pubblicate sul sito www.ersa.fvg.it. E quali sono le colture interessate per questo servizio? I bollettini attualmente sono disponibili per le colture erbacee, quindi i cereali autunno-vernini, il mais, la soia, la colza, il girasole, e le colture arboree, melo, pero, drupace, attinidia, olivo e vite. Per la vite poi ci sono anche bollettini specifici per le zone DOC, Aquileia, Lattisana, Annia, Grave, Isonzo, Collio, Colli Orientali e Carso. Il tutto sia per la produzione convenzionale che per l'agricoltura biologica. C'è poi un canale Telegram dedicato alla cimice marmorata asiatica e uno attraverso il quale vengono divulgati materiali informativi prodotti o raccolti da ERSA e riportate le prove sperimentali in corso di realizzazione. Possiamo chiarire che differenza c'è tra la difesa integrata e la produzione integrata? Per legge la difesa integrata è obbligatoria per tutti, ma riguarda esclusivamente il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari. La produzione integrata, invece, è un concetto molto più ampio ed è volontaria. Oltre alla difesa, coinvolge anche la gestione del suolo, le rotazioni colturali, la fertilizzazione, l'irrigazione e le modalità di raccolta. Normalmente è collegata a un regime di certificazione denominato Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, soggetto al controllo di organismi terzi, così come avviene per l'agricoltura biologica. Oggi con Nennio Scarbolo, che ci cura la rubrica dell'olio e dell'olivo, parliamo di un argomento strategico che appassiona gli olivicoltori, quello della potatura, che si può dividere in potatura di impostazione, di produzione, secca e verde. Ce n'è da parlare. Gli astoni di olivo di prima categoria vengono venduti a un'età di 2-3 anni. Sono in vaso di 18x20, hanno un'altezza di 120 cm. Naturalmente sono impalcati, ossia forniti di rami anticipati, a 80-100 cm. I rami anticipati saranno le future branche della pianta di olivo allevate a vaso policonico impalcato basso. Basso significa 80 cm. Si consiglia di piantare in zone collinari pendenti molto ventose. Medio 100 cm in piano, areale di appezzamenti vasti, dove si prevede la raccolta con scuotitori al tronco. Alto impalcati, oltre queste misure, indicato per viali, giardini, un tempo per impianti in consociazione con altre colture erbacee. Perché a vaso policonico? È la forma di allevamento che intercetta maggiormente la luce, indispensabile per la riuscita della coltivazione dell'olivo. E ha le tre branche, disposte a 120 gradi, vanno bene anche quattro branche se disposte a croce e cultivar debole, inclinate a 45 gradi rispetto al tronco. Assolutamente non strette a 30 gradi perché tendono a vegetare troppo, ma neanche troppo piegate a 60 gradi perché sviluppano sempre rami dorsali, succhioni, che sfruttano inutilmente le sostanze elaborate dalla pianta. Le branche principali scelte sin dall'inizio, inclinate al giusto grado, non devono mai essere deviate con tagli di potatura. Su ogni branca principale, dalla base a salire fino in punta, verranno eliminati i rami dorsali scelti ed irradati, i rami laterali rivolti all'esterno che diventeranno branche secondarie, terziarie e via, sempre più corte e deboli in prossimità della punta. Il nostro ipotetico oliveto è formato da almeno 5-6 cultivar con vigorie diverse e quindi portamenti diversi, anche se adottiamo la stessa forma di allevamento, nel nostro caso vaso policonico. Quasi tutti gli olivicoltori tendono a uniformare le piante alla stessa altezza, come fosse un vigneto. Questo non deve succedere perché la pianta vigorosa non va assolutamente abbassata alla stessa altezza delle piante deboli. La vigoria delle varie cultive va secondata per avere tutte le piante equilibrate e ottenere produzione costante tutti gli anni. La potatura serve a questo. La potatura di produzione o secca nei nostri areali si esegue in primavera e consiste nell'asportazione di poloni basali, getti che si generano alla base del tronco, specialmente su piante da innesto, eventuali succhioni dimenticati con la potatura verde dell'anno precedente, tagli di ramette esauriti dorsali, diradamento delle zone troppo affastellate di vegetazione che creerebbero zone d'ombra. La potatura verde va fatta in estate tra 15 d'agosto e 15 di settembre. Consiste nell'arieggiare la chioma sportando tutti i polloni succhioni tagliandoli a raso. Il taglio si rimarginerà e le gemme basali non ributteranno nuovi germogli. Questa operazione è assolutamente indispensabile eseguirla in estate, altrimenti la dobbiamo farla l'anno successivo in primavera e le gemme basali germoglierebbero. Quando si parla di diserbo ci sono sempre delle associazioni alla chimica ed è uno dei temi più all'attenzione di chi ha a cuore l'ambiente. All'Università di Udine si sta studiando e praticando nuove tecniche, tecniche del pirodiserbo, ovvero del diserbo con fonte di calore. Se ne sta occupando il professor Gianfranco Perger, che insegna meccanizzazione agricola. State studiando soprattutto il pirodiserbo in vigna. Ci stiamo occupando recentemente di tecniche alternative al diserbo chimico e in particolare del pirodiserbo per il controllo delle infestanti sulla fila del vigneto. Sono 2 anni ormai che facciamo prove sperimentali di confronto fra la lavorazione del terreno, lo sfalcio e appunto il pirodiserbo. E la cosa interessante è che stiamo provando un nuovo modello che utilizza biomassa come combustibile, cioè praticamente pelle di legno e anche pelle di legno di vite che si può ricavare dalla raccolta dei sarmenti di potatura. Naturalmente questa tecnica non consiste nel bruciare l'erba, ma nel sottoporla a un rapido shock termico in modo da provocare una specie di alessatura dei tessuti delle infestanti che poi nel giro di 1 o 2 giorni si seccano naturalmente. Ovviamente la vite non viene toccata. Quali sono i vantaggi? I vantaggi rispetto alle altre tecniche sono un migliore controllo attorno ai ceppi e ai pali, non ci sono danni alle piante, ma soprattutto è più facile scegliere il momento di intervento, per esempio rispetto alla lavorazione del terreno, perché si può intervenire anche poco dopo una pioggia, cosa che del resto è anche importante in una regione piovosa come la nostra. Quali sono però i rischi? I rischi non vanno sottovalutati, naturalmente c'è il rischio ovvio di provocare dei principi di fiamma, soprattutto in presenza di materiali infiammabili, come erba secca o sarmenti, e quindi va sempre raccomandato l'uso su terreno almeno umido, cioè poco dopo una pioggia o anche la mattina presto quando c'è rugiada. Ci sono delle evoluzioni alla vostra macchina del calore per il diserbo? Attualmente stiamo studiando anche altri possibili impieghi di questa tecnica. Ad esempio si può usare per la spolonatura. Si è pensato di usarla anche per ridurre la carica di spore fungine sul terreno con degli interventi in inverno o a inizio primavera, perché questo potrebbe ridurre la carica di spore, per esempio della peronospora, e quindi contribuire a ridurre anche il numero di trattamenti fitosanitari da effettuare in seguito. Oggi con Franca Merluzzi che ci cura questa rubrica andiamo virtualmente alla scoperta nello storico borgo di Case in comune di Manzano del giardino fiorito di Villa Romano. Siamo nel periodo della fioritura delle peonie, incantevoli con i loro petali leggeri come il tulle, tanto delicate quanto effimere. Nel giardino di Villa Romano, a Case di Manzano, cresce una magnifica peonia arbustiva Duchesse de Morny, che ogni primavera si riempie di fiori. Ora la Duchesse sta per mostrarsi in tutta la sua bellezza, ma quest'anno non avrà ammiratori. Le aperture al pubblico dei giardini sono rinviate. Nell'attesa prepariamo i nostri futuri itinerari, verdi ed ecologici, magari in bicicletta, alla scoperta dei piccoli paradisi nascosti come questo che la proprietaria, Marina Romano, cura amorevolmente. Protetto dal muro di cinta, il giardino si estende attorno alla dimora con l'antica torre e il pozzo. Sul prato, manufatti in pietra, sono disposti accanto ad opere di arte contemporanea. Sono animali e figure dell'artista udinese Giorgio Celiberti, inseriti tra alberi, bossi, rosai e altri arbusti e fiori di stagione. Tra le foglie si scorge la fontana con la dea Fortuna e 2 putti in pietra indicano il vialetto che prosegue con bossi secolari verso il Brolo e la Braida, dove sopravvivono vecchie varietà di alberi da frutta e un vigneto. Nel parco ora fioriscono gli alberi di Giuda, accanto ai pioppi cipressini e ai cedri secolari. Un cancello in stile Liberty apre su un grazioso cortiletto interno con piante di acanto e rampicanti. Sul giardino della villa si affacciano anche altri edifici ristrutturati. Sì, nella limonaia, con un bel soffitto decorato, è sistemata una raccolta di libri sui giardini e negli annessi agricoli è allestito un museo dell'arte vinaria. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento con cenni di pesantezza, con limatura dei prezzi venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,80 e 17 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 36,90 e 37,20, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 16,60 e 16,50 e il frumento tra 19,80 e 20,10. Rispetto ad un anno anno fa il mais è aumentato di 40 centesimi e la soia di 4,40 euro al quintale. Scambi in movimento all'ortofrutticolo di Udine con prezzi alternanti. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 0,90 e 1 euro il chilo IVA esclusa. I finocchi tra 1,10 e 1,20, i cavoli tra 1,50 e 1,60, il radicchio rosso tondo tra 1,20 e 1,30, gli aspargi tra 2,50 e 3,50, i kiwi tra 1,50 e 2,50 e le fragole tra 3,50 e 4 euro il chilo. Settimana discreta nel settore della pesca per le condizioni favorevoli del tempo, con prezzi stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, vengono quotati da 20 a 30 euro il chilo IVA esclusa, le ombrine tra 13 e 28, i laterini tra 7 e 9, i gamberetti, le passere da 10 a 15, le sogliole da 11 a 26, le seppie da 5 a 10, i moscandili da 6 a 13, i canestrelli da 8 a 10 e le cappesante da 10 a 14. Domanda stabile nel comparto caseario con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 6,05 e 6,35 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30, con marchio di qualità tra 8,90 e 9,30. Mentre per quanto riguarda il prezzo del latte alla stalla, la Commissione della Camera di Commercio ha rinviato la quotazione ad altra seduta. Con il previsore dell'ARPA Osmer, Livio Stefanuto, sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Il promontorio anticiclonico che si estende sull'Italia e sul Mediterraneo tende a indebolirsi per il formarsi sulle Baleari di una depressione che richiama un fronte caldo sul sud Italia. Contemporaneamente un fronte freddo scende da nord verso i Balcani, lambendo il Triveneto. Da domani sulla regione affluiranno correnti nord-orientali per alcuni giorni. Stanotte saranno ancora probabili precipitazioni sparse in montagna e sull'alta pianura, con quota neve in calo fino a 1.003 sul Tarvisiano e 1.007 sulle Alpi Carniche. Domani in giornata avremo cielo da nuvoloso coperto, con maggiore schiarite dal pomeriggio e a est. Soffierà bora, moderata in pianura, da sostenuta a temporaneamente forte sulla costa, vento da nord-est anche in quota. Martedì avremo cielo variabile, per la presenza di nubi ad alta quota, mentre nei bassi strati l'aria sarà piuttosto secca. Temperature massime sui 20-22 gradi e soffierà bora, moderata in pianura, forte sulla costa. Mercoledì e giovedì, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sempre con bora moderata sulla costa. Da venerdì a domenica prevarrà ancora la presenza dell'anticiclone con aria secca, quindi avremo cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con venti di brezza e temperature massime in pianura saranno nuovamente attorno ai 23-24 gradi. Data la stagione, si consiglia comunque di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proveverbio friulano: se al plu fa il dì di San Giorgio, il cavalier al va da cort, ovvero se piove il giorno di San Giorgio, il 25 aprile, il baco da seta sarà da buttare, una vera disgrazia per l'economia domestica contadina di una volta. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.